locura brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Ci sono delle fatali scansioni del tempo che molte volte vengono attribuite alle epoche passate soltanto dalla lettura storica, dall'analisi del costume, dall'analisi della letteratura, dell'arte e via dicendo. Ma ci sono persone che per una particolare illuminazione, per una loro sensibilità, per una loro folle inconsapevolezza o perché in realtà colgono linee indefinibili dove il tempo non ha la stessa scansione che a lui danno gli uomini, che riescono a cogliere nella loro epoca alcuni sintomi, alcuni segni di epoche che verranno dopo. E queste loro visioni molte volte le raccontano attraverso la letteratura e l'espressione artistica. Ora sarebbe molto interessante capire nell'epoca in cui stiamo vivendo quali sono i momenti che ci annunciano ciò che noi saremo, ciò che noi diventeremo, perlomeno ci danno dei segni di quello che sarà la civilizzazione nei prossimi secoli, addirittura nei prossimi millenni. Non potremo saperlo, lo potranno vedere a posteriori alcune persone che, come faremo noi questa mattina, hanno osservato i segni del futuro in rappresentazioni artistiche, culturali, letterarie del passato. Le vetture. Io osservai che tutti quelli che andavano prendevano la dritta e quelli che venivano la sinistra. Questo mezzo così semplice per non essere schiacciato era così poco prima immaginato. Così si scansavano gli incontri pericolosi. Tutte le uscite erano sicure e facili. Ciascuno se ne tornava pacificamente a casa senza essere pestato o morto. Io non vedeva più in quel ridicolo e rivoltante colpo d'occhio di mille carrozze scambievolmente impacciate restare per 3 ore immobili. Louis-Sébastien Mercier, l'anno 2440, 1771. Voi direte, com'è possibile che nel 1771 qualcuno abbia una visione così lucida di una coda di automobili che tengono comunque la destra, tutte incolonnate nel ritorno a casa. Eppure questo accade, e perché accade, come accade, in che maniera accade, ce lo dice l'ospite in studio questa mattina. Piero Gondolo della Riva, buongiorno. Buongiorno. È uno studioso, collezionista di documenti relativi alla visione del futuro nel passato. Una singolare attitudine. Lei è andato a ricercare, colleziona, espone, tratta e collaziona documenti relativi alla visione del futuro nel passato. In particolare questo primo brano che abbiamo mandato, chi l'ha scritto e cosa aveva visto? Beh, l'ha scritto, come è stato detto, Louis-Sébastien Mercier, anche se l'ha pubblicato anonimo ad Amsterdam in francese nel 1771, e già alla fine del Settecento abbiamo delle edizioni italiane, quindi il testo che abbiamo sentito è la traduzione dell'epoca del 797 italiana. Ora, Louis-Sébastien Mercier è considerato in qualche modo il padre di questa letteratura, anche se già prima di lui c'erano stati degli esempi di testi che immaginavano il futuro, ma da questo libro, l'anno 2440, ha segnato veramente l'inizio di un gusto letterario, di un tipo di letteratura. Ora, il suo libro, naturalmente, come tutti i libri in cui si immagina il futuro, ha dei lati in cui ha indovinato in qualche modo quello che capiterà dopo, come il discorso di viaggiare a destra e non in mezzo alla strada, da cosa che nel Settecento nessuno faceva. Soprattutto la fila, mi impressiona. No, ma la fila era quella che lui voleva evitare con questo. Cioè, nel suo testo lui dice: viaggiando a destra chi va in un senso e a sinistra nell'altro, si evitano quegli ingorghi di vetture, cioè di carrozze, ferme per tre ore. Ecco, qui magari la profezia non è stata fino in fondo. No, perché anche viaggiando a destra ci sono ferma comunque, lo stesso. Sì, certo. Sì, però nel suo libro, per esempio, la Francia, che si svolge in Francia, lui si immagina che la Francia nel 2440 sia sempre monarchica, però anziché essere una monarchia assoluta diventa una monarchia ereditaria, sì, ma costituzionale, quindi questa è già una novità per il 771. Poi, per esempio, la pena di morte esiste ancora, ma da 30 anni non è più stato commesso un omicidio, quindi praticamente non viene più usata, e questo anche perché secondo lui la società sta migliorando, quindi per esempio i criminali diventano rarissimi nel 2440 e si autodenunciano, quindi e vivono di dolore, di insomma, muoiono nel pentimento di quello che il hanno bello fatto. Che noi non possiamo ancora smentirlo. Beh, appunto, no, cioè non costituisce una previsione assolutamente giusta di quello che noi, per quello che abbiamo visto fino adesso, lui ha avuto dei segni. Ma questi autori, questa corrente di pensiero, di letteratura, di immaginazione, di arte, aveva la consapevolezza lucida di avere come delle visioni, di gettare dei sassi su qualcosa che avverrà, o non se ne rendono conto? Secondo me era una moda, cioè molto una moda letteraria anche questa, è un genere letterario. D'altronde a questo genere letterario oggi viene dato un nome che io trovo abbastanza giusto, che è quello di ucronia, in parallelo con l'utopia, perché in fondo l'utopia, il termine utopia è inventato da Tommaso Moro nel 500 ed è il non luogo, il non tempo, cioè il non cronos, è quello che usa Renouvier nell'Ottocento, intendendo che cosa capiterebbe se la storia fosse andata in un altro modo, se Napoleone avesse vinto Waterloo anziché perdere, cioè. Oggi però ucronia viene usata anche nel senso di visione trasposta non in un'isola immaginaria ma in un tempo immaginario, cioè in un tempo futuro, ecco. E penso che questo è diventato anche una moda giovanile, viene chiamato steampunk, è una sorta di corrente di pensiero, di moda, di filmografia, di fantascienza, che vorrebbe legato all'energia del vapore tutta una serie di invenzioni mirabolanti. Molti dei film che oggi mandano in sollucro le giovani generazioni tutte basate su signori con degli occhialoni grossi, con degli stivali che al posto di dirigibili magari hanno dei missili, ma vanno con energia a vapore. Questo ha determinato mode, modi di vivere, modi di essere, letteratura, subletteratura e via dicendo. Quindi c'è una tendenza profonda nell'umanità a cercare di vedere e di immaginare, di prevenire quello che verrà. D'altra parte in Mercier abbiamo molti altri aspetti, non soltanto questo del viaggiare a destra piuttosto che in mezzo alla strada. Per esempio abbiamo dei passi relativi alla società. Sentiamone uno. Delle donne. Le donne non hanno altra dote che le loro virtù e i loro vezzi. Le donne non hanno dote di sorta alcuna. Ogni uomo nutrisce la moglie che feconda, e questa, tenendo tutto dalla mano di suo marito, è più disposta alla fedeltà e all'obbedienza. Ecco, qui di cosa stiamo parlando? Qua mi sembra rappresentiamo l'utopia, ma rappresentiamo anche molte volte l'illusione. Sì, l'illusione, perché non penso che il mondo sia andato in questo modo. Insomma, qui si parla di dote nel senso della dote nel termini di denaro, un'autonomia, prevede un'autonomia finanziaria delle donne. No, prevede il contrario. La donna non ha alcuna autonomia, non ha più dote, perché nel Settecento ancora molti sposavano una signorina perché aveva una bella dote. Allora qui dice, sparita la dote, abolita la dote, ormai la donna dipende al 100% dall'uomo, e quindi dipendente al 100% dall'uomo anche economicamente sarà più fedele e più disposta all'obbedienza. Non aveva calcolato la donna poteva trovarsi un'autonomia personale lavorando, questo non è previsto, ma e nemmeno è immaginabile che la donna sia più fedele e più obbediente soltanto perché non ha dote. Insomma, questa è un po' una visione fantastica, direi. Anche perché una volta ottenuta, poi diciamo che il concetto di fedeltà attraversa trasversalmente tutte le organizzazioni dei rapporti umani. Io vedo che lei ha curato recentemente una mostra organizzata dal Consiglio regionale del Piemonte, perlomeno appoggiata, a Torino, sulla conquista immaginaria della Luna e dello spazio dall'antichità al 1969. E vedo cose meravigliose, vedo raffigurazioni di alieni, raffigurazioni di astronavi. Ecco, ce ne parla un po' anche come veniva vista. Noi la corsa alla Luna la vediamo come qualcosa legato alla guerra fredda, a un certo periodo storico che finì quando finì la guerra fredda. In realtà era un vecchio sogno. Sì, innanzitutto il 1969, essendo i 40 anni della conquista reale della Luna, hanno fatto sì che sui giornali, la televisione, dappertutto si sia parlato molto dei primi passi dell'uomo sulla Luna, ma pochissimo del fatto che per 2000 anni quasi, e le dirò perché, l'uomo avesse già immaginato di andare sulla Luna. Il primo a cui si attribuisce questa cosa è Luciano di Samosata, che nel 180 d.C. scrive la storia vera in cui vanno sulla Luna, quindi il primo esempio. Probabilmente ce n'erano stati anche altri che a noi non sono pervenuti. Dopodiché c'è tutta una letteratura, soprattutto nel 600, soprattutto inglese, di libri in cui si immagina il viaggio lunare. Ora io mi interesso e colleziono anche documenti relativi al futuro, però quando il libro, anche se non si svolge nel futuro, ha un contenuto avveniristico, come il Dalla Terra alla Luna e Intorno alla Luna di Jules Verne, che si svolgono quando l'ha scritti, cioè negli anni 60 dell'Ottocento, che però hanno un contenuto evidentemente avveniristico, lo faccio rientrare in questa mia collezione. Ecco perché però in questa mostra di Torino si parlava soltanto di conquista della Luna e dello spazio, quindi le altre visioni del futuro, tipo quelle di Mercier di cui abbiamo visto ora, non rientravano in quella. Ecco, su Verne si può fare un discorso a parte, sì. Ad esempio, perché noi ragazzi siamo abituati, la nostra generazione dei cinquantenni è cresciuta sui libri di Verne, ha sempre visto queste meravigliose rappresentazioni di una tecnologia coeva all'epoca in cui lo scriveva l'autore, ma comunque destinata a sconvolgerci, dal sottomarino Nautilus al viaggio sulla Luna, quando in realtà invece lei mi dice che aveva addirittura dei precedenti. Dunque, Jules Verne intanto si documentava moltissimo sulla scienza del suo tempo, eccetera eccetera. Il sottomarino era stato inventato nel 700, già alla fine del 700 e primi dell'800 un inglese aveva fatto un sottomarino che si chiamava Nautilus come quello di Jules Verne. Quindi semmai il pregio di Jules Verne non è di inventare qualche cosa, ma di anticipare l'uso futuro o la realizzazione futura. Naturalmente un sottomarino che potesse percorrere 20.000 leghe sotto i mari non esisteva al tempo di Jules Verne. Ma soprattutto a Jules Verne non so perché viene data questa etichetta di scrittore in qualche modo di fantascienza, del futuro eccetera. L'unico libro veramente sul futuro di Jules Verne era un manoscritto che era andato perduto, quindi mai pubblicato durante la sua vita, che si intitola Parigi nel XX secolo e che fu ritrovato nel 1989 dagli eredi e pubblicato da me a Parigi nell'edizione francese nel 1994. Quindi fino al 1994 un romanzo sul futuro non esisteva. E cosa vedeva lui nel XX secolo? Vedeva una Parigi molto pessimista, una Parigi del 1960-62, quindi 100 anni dopo l'anno in cui l'aveva scritto, in cui tutto è tecnica, tutto è denaro ed è abolizione di tutto quello che lui amava, cioè la letteratura, le lingue antiche, il latino e il greco sono sostituite dall'inglese e dal cinese, quindi cose di questo è abbastanza giusto. Eccetera. E questa visione sfacciatamente, chiamiamola moderna tra virgolette, del mondo in cui conta soltanto il denaro e la macchina, la tecnica in qualche modo, e quindi questo ragazzo protagonista del romanzo, che è un poeta e che ama la letteratura, va in biblioteca ma nessuno gli dà più i libri eccetera eccetera, e si lascia morire alla fine nel cimitero del Père Lachaise a Parigi per disperazione a 19 anni. Quindi un romanzo molto pessimista. Ma c'era una paura della tecnologia come qualcosa che disumanizzasse, in questo caso sì, quindi a proprio Jules Verne, a cui viene sempre attribuita questo amore per la tecnica eccetera eccetera, in realtà vede che ha scritto un libro in cui è tutto il contrario, era molto spaventato. Mi ricorda Fabrizio Intonti che anche la storia del cinema nasce con un film di Méliès che rappresentava a modo suo, con una delle prime contraffazioni cinematografiche, la conquista della Luna. Ma il film di Méliès è preso dal romanzo di Jules Verne e dall'operetta, soprattutto, che nel 1875 Offenbach aveva tratto abusivamente dai romanzi di Jules Verne. Quindi andiamo avanti. Fra le sublimi invenzioni di cui il XX secolo si onora, il telefonoscopo può contare per una delle più sorprendenti. L'antico telegrafo permetteva di comprendere a distanza un corrispondente. Il telefono permetteva di udirlo, ma il telefonoscopo permette al tempo stesso di udirlo e di vederlo. Che desiderare di più? Albert Robidat, il XX secolo, 1882. Piero Gondolo della Riva, ma Robidat cosa aveva intuito? Il televisore probabilmente. Ha intuito mille cose. Robidat è lo scrittore più importante tra la fine dell'Ottocento, muore nel 1926, quindi al principio del Novecento, di questa letteratura del futuro, avveniristica. Scrive soprattutto due romanzi, che sono Il XX secolo e La vita elettrica, La vie électrique, in cui immagina la nostra società negli anni 50 e 60 del Novecento, in cui ci sono cose assolutamente straordinarie rispetto a quelle che noi possiamo avere, che i suoi contemporanei possano aver pensato. Per esempio c'è una diffusione spaventosa dell'aviazione nei romanzi di Robidat, però gli aeroplani anziché atterrare in un aeroporto si posano sui tetti delle case, quindi i portieri vengono spostati dal pian terreno all'ultimo piano perché i visitatori della casa arrivano all'ultimo piano in quanto arrivano con l'aereo, per esempio. Poi non so, c'è il femminismo, i romanzi di Robidat sono dominati dal femminismo, quindi esattamente il contrario di quello che abbiamo sentito prima nel testo di Louis-Sébastien Mercier, per cui ci sono suffragio universale, le donne avvocato, le donne spadaccine, le donne, cioè, che fanno tutti i mestieri che prima erano affidati all'uomo. Beh, lui ovviamente già intravedeva i sintomi di questo movimento al suo tempo e immaginava uno sviluppo fantastico che poi effettivamente c'è stato, insomma. Poi per esempio immagina che c'è tante altre cose, la pubblicità sui tetti, altra cosa moderna, sembra di vedere Blade Runner, in realtà si vede un romanzo dell'Ottocento, sì, 882, sì, uscita a puntate nel 82. Poi per esempio la luna per comodità viene attirata a 675 5 km dalla Terra, in modo che ci sia una avvicinata, sì. Poi ci sono i matrimoni per telefono, per esempio, nei romanzi di Robidà. Ci sono gli ospedali aerei, tutte le chat line, gli amori telematici. Ecco, i sottomarini, naturalmente, gli ospedali aerei. Poi c'è la compagnia d'alimentazione, cosa che riprenderanno poi altri scrittori, per cui vuol dire che si fa un abbonamento e in casa un sistema di tubi porta il cibo già pronto in tutte le case. Come era la posta pneumatica, lo immaginava. Il cibo pneumatico, in qualche modo. Sì. Beh, trovo fantastico queste costruzioni, però mi sembra di intuire che alla fine davano anche corpo ai loro timori, alle loro paure per il futuro, sì. Il fatto che le donne prendessero autonomia o che le donne ci fosse necessità di tenerle al guinzaglio con il salario a loro negato perché sì. Non tradissero, o la tecnologia che in qualche maniera potesse soffocare l'umanità. Un altro fatto che sicuramente spaventa Robidà è l'importanza attribuita al denaro già al suo tempo, alla fine dell'Ottocento. Cioè lui a un certo punto dice: salve denaro, imperatore dei tempi moderni, salute, i destini dei popoli si agitano adesso alla borsa e nei gabinetti dei grossi banchieri, il milione pare la vera unità monetaria. Le parole di Robidà, cioè c'è questo senso dell'importanza della banca, del denaro eccetera, che sopraffà molte altre cose, soprattutto la cultura, la letteratura eccetera. E ancora non era, diciamo, il marxismo era qualcosa di abbastanza non... siamo negli ultimi anni dell'Ottocento, quindi sì non c'era ancora stata un'applicazione. Ecco, non un'applicazione concreta, sì, certo, e non storica. Non eravamo nel 1917. Però probabilmente non può essere che già sentivano il sintomo di qualcosa che stava accadendo e, ripeto, davano corpo a qualcosa che loro pensavano che potesse accadere. Probabilmente sì, e questo lo sentiremo molto di più in Salgari, in Emilio Salgari. E sentiamolo allora. Al mattino del giorno appresso, i due protagonisti scendevano dalla stazione della capitale francese, raddoppiata ormai per area e per popolazione in quei 100 anni e divenuta una delle città più industriali del mondo. L'aria della grande capitale, satura di elettricità in causa del numero infinito delle sue macchine elettriche, non fece che aggravare le condizioni di Toby e Brandok. Furono condotti in un albergo in preda al delirio. Il signor Hawker, sempre più spaventato, fece chiamare subito uno dei più noti medici, a cui raccontò ciò che era toccato ai suoi disgraziati amici, non dimenticando di informarlo della loro miracolosa risurrezione. La risposta che ne ebbe fu terribile. Quantunque io stenti a credere che questi uomini abbiano trovato il segreto di poter dormire un secolo intero, disse il medico, né io né nessun altro potrà salvarsi. Sia l'elettricità intensa a cui non erano abituati o l'emozione prodotta dalle nostre meravigliose opere, il loro cervello ha subito una scossa tale da non guarire mai più. Brandok e Toby erano stati dichiarati pazzi, per di più pazzi inguaribili. Tanto valeva che non si fossero risvegliati dal loro sonno secolare, mormorò il signor Hawker. Io ora mi domando se, aumentando la tensione elettrica, l'umanità intera, in un tempo più o meno lontano, non finirà per impazzire. Ecco un grande problema che dovrebbe preoccupare le menti dei nostri scienziati. Emilio Salgari, Le meraviglie del 2000, 1907. È interessante vedere come manteneva comunque la corrente elettrica, l'elettricità, questo suo senso misto, quasi del fulmine rubato agli dèi, che può essere per gli uomini fonte di grande ricchezza, grande progresso, ma anche un grande terrore. In questo caso Salgari cosa aveva preconizzato? Ha una visione anche lui pessimistica evidentemente del futuro, perché si immagina che questi due che si sono fatti ibernare nel 1903 e si risvegliano nel 2003 impazziscano per tutto quello, queste meraviglie, perché sono meraviglie, c'è un tunnel sottomarino che porta al Polo Nord, ci sono naturalmente aeroplani di tutti i generi, ma il libro è scritto al principio del Novecento, quindi questo anche l'ibernazione è un concetto molto avanzato, tutti i romanzi che si svolgono nel che immaginano un futuro partono o da un sonno in cui poi o da un'ibernazione, perché per arrivare nel futuro in qualche modo ci vuole. Ma per esempio ha un senso Salgari straordinario, direi, sul socialismo, perché dice che il socialismo, siamo al principio del Novecento, dopo alcune esperienze negative è scomparso. Ora, se si pensa che c'è stato il 1917, l'Unione Sovietica e poi la caduta del muro di Berlino, eccetera, eccetera, questa non è una visione così avventata. Dice: rimangono soltanto qualche colonia comunista di origine tedesca o russa in Patagonia e nella Terra del Fuoco. La parola sciopero è sconosciuta nel 2000, le meraviglie del 2000. Si lotta ancora per mezzo di pompieri che li innaffiano contro i criminali, perché questa naturalmente contro i criminali ci sono, contro gli anarchici, eccetera. Poi i criminali sono nascosti nascosti, seppelliti in una città sottomarina e sono sotto controllo. Quindi questa forma di carcere sottomarino, eccetera. Questa è l'idea di uno stato futuro, un ordine futuro del mondo, sì, in cui impera la tecnologia e viene annullata ogni idea di criminalità o di dissenso. Sì, in compenso però l'elettricità uccide, questo è il... soprattutto uccide quelli che arrivavano dal Novecento, quindi che non erano abituati all'elettricità, questo è il concetto, perché chi viveva nel 2000 sopportava anche l'elettricità, ma questi due protagonisti che fanno un salto di 100 anni non sono pronti fisicamente a reggere questa e non si situazione. Immaginava invece cosa avrebbe loro realmente aspettato. Io ringrazio Piero Gondolo della Riva, che è studioso e collezionista, ricordo i documenti che sono stati relativi alla visione del futuro e del passato. Melog 2.0. È freddo? No, grazie. È un frigorifero. Bene, credo che la signorina Clayton dovrà trovare un altro mezzo di trasporto. Se non incontrerò quella donna, non c'è possibilità di romantica infatuazione, giusto? Sei tu il dottore Doc. Va bene, prenderemo la DeLorean e torneremo nel futuro. L'ho soltanto lambito nella prima parte di questa trasmissione, un termine che probabilmente comincia soltanto adesso ad essere orecchiato in maniera più decisa. Il termine è steampunk. Steampunk è un filone letterario fantascientifico. Il primo a utilizzare questo termine è stato Paul Di Filippo nel 95, che ha pubblicato la trilogia di Steampunk. Sono tre romanzi brevi dove viene immaginato un passato in cui alcune tecnologie proprie della nostra contemporaneità già esistono, anche se diversamente articolate. Ricordate un film in particolare per farvi capire, Il ritorno al futuro, questa meravigliosa automobile faceva avanti e indietro nel futuro. A un certo punto, in una di queste fasi di questa saga, questa automobile si reca nel selvaggio West e c'è questa sorta di particolarità in cui in un selvaggio West ambientato nell'epoca appunto della conquista di quei territori, in realtà coesistono tecnologie che sarebbero del tutto fuori posto. Per capire meglio questa nuova tendenza che fa sì che dei ragazzi vanno in giro vestiti come andava vestito magari il tipico viaggiatore ottocentesco, con dei grossi occhialoni spessi, con stivaletti con i lacci, ma allo stesso tempo abbiano addosso loro delle tecnologie particolarissime fatte di ottone, fatte di materiali arcaici che dovrebbero ricostruire moderne funzioni. Esiste tutta una gadgettistica, ci sono degli artigiani che ricostruiscono dei laptop in stile steampunk, quindi prendono dell'ottima radica di legno, prendono delle rifiniture di fine ottone, come se fossero degli oggetti di arredamento di un vecchio e antico panfilo degli inizi dell'Ottocento, ricostruiscono il loro laptop. E questo vale per tante altre tecnologie. Per approfittare del vagare errabondo di Stefano Morigi per il Regno Unito, abbiamo colto l'occasione di riprenderlo ancora una volta, dopo averlo preso a parlarci delle tecnologie che cambieranno il mondo, che hanno cambiato il mondo, perché lui proprio in questi giorni si sta occupando di steampunk. Esattamente dove, Stefano? Buongiorno Gianluca, effettivamente mi trovo a Oxford, a pochi passi dal Museo di Storia della Scienza, dove in questi giorni è allestita una suggestiva mostra dedicata allo steampunk. Sono 6 sale dove l'immaginario vittoriano riprende forma in queste fogge futuribili in cui le più sofisticate e moderne tecnologie che noi solo potremmo sognare sono rilette in questo elegante e passatista stile vittoriano. Steampunk perché mette insieme, diciamo, il cyberpunk, che è la forma più recente di fantasia legata alla scienza, che è quella di Gibson, di Stirling, che ha determinato il mondo delle macchine, degli uomini che entrano in contatto e quasi si trovano uniti su una piattaforma comune, e steam è il vapore, quindi le macchine che vanno a vapore rappresentano un futuro nel passato. Sì, perché il vapore è il simbolo della forza che ha messo in moto la rivoluzione industriale, che è partita ovviamente da queste terre, e quindi il sogno, non peraltro nostalgico, ma puramente estetico, è quello di immaginare un futuro così come avrebbero potuto farlo i grandi campioni della rivoluzione industriale e tecnico-scientifica inglese. È stata una sfida anche per gli amici del Museo di Oxford, perché il direttore Jim Bennett, che è uno storico della scienza, aveva qualche perplessità. Non è argomento né storico scientifico né che attiene alla storia della tecnologia in quanto tale, ma è un immaginario che esalta la macchina come capacità di sognare il possibile, e lo sogna anche in uno stile che è quello trascorso, lo sogna in quello stile che per la prima volta ha trasformato con i suoi dispositivi la società, i costumi, proprio nei termini di quella società vittoriana, ambigua e sfaccettata che noi tutti conosciamo. Ecco, vediamo cosa c'è secondo te, ma dal tuo punto di vista, visto che hai respirato l'aria di una tendenza che ancora non è arrivata molto decisamente nel nostro paese, ne parlano alcune punte, alcune avanguardie, non è entrata nell'immaginario. Per far capire, il nanetto che faceva Ciribirici Kodak, vi ricordate, quello lì che andava a comprare la pellicola e veniva da un altro mondo, quello era steampunk, con quel cappello da vecchio aviatore, con quegli occhialoni, con quegli stivaloni, con quella divisa metà fra l'esploratore e il pilota di astronave, quello era perfettamente steampunk. Ma secondo te c'è un senso di rassicurazione, di voler riconciliarsi con la tecnologia dandogli un senso di passato, di già sedimentato, di familiare, insomma di buono? È ancora una volta togliersi il terrore fottuto che ha l'uomo moderno per la tecnologia, sbagliando a volte. Guarda, Jim Bennett mi diceva appunto, il direttore, che questo atteggiamento c'è in molti dei visitatori della mostra, che solitamente si avvicinano a una mostra scientifica o tecnologica con diffidenza e paura di chi magari non domina la materia o ne è terrorizzato per le ragioni che tu prospettavi poco fa, e invece, immaginando di trovarsi in un mondo estetico o comunque esteticamente percepito, si sentono più rassicurati da colori, materiali che ricordano il tempo che fu. Non è così per i campioni, per gli artisti, per coloro che lo steampunk profetizzano e praticano esteticamente, perché è un esercizio di pensare il futuro come se funzionasse ancora a vapore. Questo consente loro di esaltare fino all'ossimoro tecnologico le potenzialità immaginative della macchina stessa. È l'esaltazione del concetto di macchina che diventa stile di vita. In questo senso si sognano vite meccaniche, tastiere del computer che è solo appunto paradossalmente Charles Darwin avrebbe potuto sognare. C'è per esempio nella seconda sala del museo un magnifico e divertente iPod che è realizzato con un microfono di altri tempi, e al centro, giocando sulla lingua inglese, c'è un occhio, cioè I scritto EYE, un iPod, e tu devi infilare un dito in quell'occhio per far partire la musica. Quindi c'è anche questo gusto del grottesco che riemerge nelle macchine che si possono anche vedere sul sito della mostra. Ma questo mi fa prevedere anche un totale cambio nell'estetica della macchina. Le macchine hanno la loro estetica, le macchine sono anche belle a vedere. A noi piace entrare in quelle antiche officine, in quelle vecchie fabbriche che sono state restaurate e rese visibili, perché ti rendi conto come ogni epoca ha modellato la tecnologia secondo quelli che erano i gusti, le tendenze, il pensiero. Immaginare che oggi l'estetica delle macchine sembra prevalere, perlomeno nel genere consumer, nell'asciuttezza, tutto bianco, linee quasi inesistenti, ridotto al minimo, sembra quasi non essere degli oggetti non hanno sfaccettature ma sono pura essenza, un po' come una ricerca di una pagina bianca della tecnologia. E sapere che pian piano invece riemerge qualcosa di molto legato a estetiche arcaiche, secondo te cosa cambierà nella percezione della tecnologia? Ma guarda, posso dirti questo, che nei teorici e negli artisti steampunk c'è una diffidenza quasi verso queste nuove tecnologie che tu dici, perché sono così minimaliste, sempre meno invasive e visibili, che tolgono, come dire, la priorità scenica alla macchina. Questa è una delle ragioni per cui loro recuperano la società del vapore, dove le macchine erano mastodontiche, dove le macchine si imponevano quasi socialmente con le loro dimensioni, le loro funzioni, i loro fumi, i loro rumori. E ora la tecnologia molto più potente è, ma altrettanto impercettibile quasi. Pensa solo a cosa sono le nanotecnologie. Per cui i teorici dello steampunk non amano la moderna tecnologia, perché paradossalmente toglie dal loro spettro visivo le macchine. Tu prima mi dicevi cosa potrebbe esserci in Italia di una forma di insensibilità che potrebbe avvicinarsi allo steampunk, ma forse un inizio, un sintomo di simpatia verso questa archeologia delle macchine è proprio l'archeologia industriale, che lentamente sta prendendo piede. Sempre più mostre d'arte, non solo, trovano in questi relitti delle antiche archeologie dei teatri capaci di suggestioni diversamente trovabili in altri contesti. Grazie infinite Stefano Morigi da Oxford. Avrete sentito qualche indecisione tecnica nella qualità della telefonata, ma usava un microfono steampunk, quindi un microfono di ottone datato di un secolo almeno addietro, quindi abbiamo voluto darvi anche dal punto di vista dell'effetto auditivo l'impressione di questa tecnologia arcaica che ritorna ad imporci la sua poetica. Riprendiamo il discorso sulle attese del futuro. Noi che viviamo tecnologicamente commisurati e contaminati da una serie di dispositivi con i quali ormai siamo entrati in perfetta familiarità, abbiamo però da una parte, come abbiamo sentito, una sorta di ricordo biologico delle tecnologie attraverso le quali ci siamo evoluti, e d'altra parte una sorta di attesa spasmodica verso quelle che saranno le vere tecnologie del futuro. Ora, se uno si pone la domanda quali saranno i segni tecnologici del vero cambio rispetto al tempo che stiamo vivendo e il tempo che cominceremo a chiamare futuro, è difficile rispondersi. Io personalmente, da un certo punto di vista, potrei dire il teletrasporto reale, concreto, organico, che ci impedisce di avere questa angustia di un corpo pesante che deve occupare dello spazio e quindi muoversi con grande fatica, quello sarebbe già per me un segno del futuro che stiamo vivendo. Poi naturalmente, ma sempre il mio punto di vista personale, su questo vorrei essere confortato dagli ascoltatori, è la macchina del tempo. Io penso che realmente tutte le profezie, tutte le fantastiche e romanzate fantasie rispetto a qualcuno che costruisca la macchina del tempo, che possa permettere di muoversi in maniera rettilinea in tutte le epoche passate, probabilmente andare nelle epoche future per avvalorare il tema che tutti noi sappiamo reale e consistente, realistico, lo vediamo quando sogniamo, lo vediamo quando immaginiamo, lo vediamo quando abbiamo segni di preveggenza, che il tempo in realtà sia sempre una grande contemporaneità, beh, questi per me sarebbero i segni del futuro. Ma quali sarebbero invece secondo Emiliano? Emiliano, buongiorno. Buongiorno, io volevo dire che sono un grande fan comunque della fantascienza specialmente degli anni 50-40. Ecco, in quegli anni, Emiliano, visto che lei è esperto, quali erano i temi rispetto... Oggi fantascienza è un po' difficile parlarne, oggi si parla di film legati all'evoluzione del cyberpunk, delle macchine che fanno da padrone, dell'umanità che si confronta con mondi fantastici, ma quella fantascienza di cui lei prova nostalgia, cosa raccontava? Raccontava un po', in quegli anni era più che altro sui robot, su fantastici macchine che pensavano da sole, che si evolvevano, così era più su questo genere qua. Che è il nostro quotidiano, quello che stiamo vivendo, quindi sì, era stata una giusta profezia. Anche se sotto gli aspetti mi è capitato un paio di racconti interessanti, uno dei quali si intitola Il costo della vita di Shikley del 52, che racconta appunto di una società in cui il protagonista è circondato da macchine fantastiche che lo aiutano, lo coccolano, lo supportano in tutto, dal cuoco robot al barman, al cameriere che rimette a posto tutto, eccetera, e fin quando appunto anche il rappresentante di una ditta così gli propone addirittura i robot che programma gli altri robot, quindi lui non doveva fare altro che alla fine premere un tasto. Quindi il maggiordomo di tutta la schiera dei robot servitori. Esatto, però di contro c'era il fatto che si doveva indebitare in modo assurdo la vita, e fino anche a dover ipotecare i guadagni del proprio figlio, per dire così. risultato finale, alla fine il protagonista si rende comunque conto che in fondo a lui non piaceva premere i tasti. Era per questo. Quindi che... in realtà l'unica fatica fisica, l'unico residuo di intervento umano che l'uomo immaginato dal passato come uomo del futuro e quindi la nostra contemporaneità era quello di usare manualmente, digitare su dei tasti, non voleva pigiare di tasti. Alla fine sì, si rendeva conto che magari gli sarebbe piaciuta più una passeggiata piuttosto che dover premere comunque i tasti per fare qualsiasi cosa. Ma infatti guarda, c'era un modo di dire: basta che premi un bottone. E mi ricordo, era molto negli anni 50-60, i genitori, e dice: un domani basterà premere un bottone. E ancora non c'era nemmeno il telecomando del televisore, la tastiera era qualcosa che non esisteva. Esisteva la macchina per scrivere, esistevano le prime tastiere per macchine per calcolare. Nessuno avrebbe immaginato che oggi la nostra interfaccia più diretta verso il mondo delle macchine sono dei tasti ancora con scritte le lettere sopra, digitiamo. In effetti c'era un senso di preveggente angustia nel suo ascoltatore. A proposito dei viaggi nel tempo, perché tutti immaginiamo un viaggio nel tempo, che spettacolo sarebbe poter andare indietro nel tempo, visitare, ognuno ha in fondo la sua era preferita. Io sono un amante anche del fantasy, quindi a me piacerebbe tanto il Medioevo oppure l'era dei Vichinghi, o chi non vorrebbe dare uno sguardo sul futuro. Però in un racconto spiega anche contro, perché in fondo chi si immagina di poter andare indietro, nel senso, potrebbe non accorgersi magari che indietro non potrebbe vivere, perché ci sono altri costumi, potrebbe venire comunque completamente travisato e bruciato sul rogo come eretico, oppure in un futuro... c'è un bellissimo film, Non ci resta che piangere, con Benigni e Troisi che vanno in un fantastico rinascimento, poi il più furbo dei due si adatta bene o male, fa il cantautore canticchiando le canzoni degli anni 70-80, e per l'altro ci sono dei traumi perché è una società diversa. La ringrazio e passiamo ad Andrea. Andrea, buongiorno. Eccomi qua, buongiorno a lei. La macchina che ha cambiato la vita del genere umano non è stata ancora inventata. Lei ha già qualche idea di quale potrebbe essere? Più che la macchina è una cosa in senso lato. Un sacco di macchine hanno cambiato la vita del genere umano e tutte le macchine, quelle che ci sono nella sua cucina, nella mia macchina lavatrice, nella sua auto o nel mio ventilatore, vanno con dei motorini elettrici. Questo motorino elettrico, secondo me, muove tutti quelli che io definisco gli schiavi moderni. Una volta lei per andare in casa sua prendeva quattro chiavi che la portavano su, adesso preme il bottone e il motore elettrico la fa salire l'ascensore. Come una miriade di macchine che sono attorno a noi addirittura. Quindi lei vede in maniera molto analogica il cuore della tecnologia che in questo momento ci fa sentire umanamente vicino alla nostra epoca è l'antico, vecchio, robusto motore elettrico, niente bravo, di più. Bravo, però c'è una cosa che cambierà tutta questa filosofia. Tutti gli schiavi moderni, cioè i motori elettrici, vanno ad elettricità. Quindi dice, se non c'è l'energia elettrica si ferma il motore elettrico. In Italia sono in corso alcune ricerche, sono agli albori, lo chiamano motore elettronico, lo chiamano, ma se non c'è l'energia elettrica, mio caro signor Nicoletti, sì, non va niente. Si fermano anche i computer più avanzati, per quanto abbiano delle batterie, non va proprio più niente, non va più il mondo, per cui niente va più al mondo, si figuri, se possiamo pensare, se niente va al mondo, al teletrasporto piuttosto che ai viaggi. Quindi io capisco quello che dice Andrea, dice il vero upgrade tecnologico dell'umanità sarà una forma di energia nuova, possibilmente pulita, non costosa in termini di impatto ambientale, impatto sociale, che farà muovere delle macchine. Poi finora siamo legati alla cara vecchia antica corrente elettrica. Quindi alla fine di questa frastagliata e interessante trasmissione non vi posso che dire che, ringraziando la tecnologia, ci sentiamo ancora una volta sempre umani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.